America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. La settimana scorsa abbiamo parlato d'Italia, ho dedicato addirittura una puntata all'Italia. Perché? Perché il Fondo Monetario Internazionale, in base all'articolo 4 del regolamento del fondo, ha pubblicato le sue considerazioni sull'economia del nostro paese. Un leggero miglioramento, vi raccontavo, ma necessità di riforme. In quegli stessi giorni Exor lanciava un affondo per cercare di conquistare negli Stati Uniti una importante società americana nel settore della riassicurazione, la Partner Re. E quello che mi ha colpito in questa azione di Exor e anche nel piglio di John Elkann è come dire il superamento di un certo complesso che noi come italiani abbiamo avuto. Non avremmo mai immaginato di poter fare un'acquisizione ostile nei confronti di un'azienda americana. Eppure è quello che sta capitando. Il 24 luglio ci sarà un voto e sapremo se questa operazione è andata a buon fine. Ecco, io vorrei riprendere il discorso Italia in relazione agli Stati Uniti per inquadrarlo su un altro tema che resta molto importante, molto forte per noi guardando in avanti, e cioè il tema commerciale. Perché dopo che Obama ha ottenuto i poteri negoziali speciali, adesso sta accelerando il negoziato col TPP, cioè l'accordo per creare un'area di libero scambio nel Pacifico, però presto toccherà anche al TTIP, cioè la creazione di un'area di libero scambio nell'Atlantico. E dunque di questo vorrei parlarvi oggi, tornando a parlare di quelli che sono i nostri interessi vis-à-vis gli Stati Uniti, vis-à-vis il commercio transatlantico. E lo faccio con Carlo Calenda, vice ministro dello sviluppo economico, che si occupa proprio del negoziato commerciale. Buongiorno vice ministro. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Allora, intanto credo un apprezzamento per Obama, è riuscito finalmente a ottenere questo risultato non da poco, vero? Sì, no, un risultato importantissimo. Abbiamo veramente temuto, dopo insomma ormai 2 anni di lavoro sul TTIP, di trovarci davanti a una chiusura derivante da meccanismi di politica interna americana. Adesso i giochi si riaprono e il tempo però è poco. Il tempo è poco, ma subito dopo il TPP, che dovrebbe essere chiuso relativamente presto, si passerà al TTIP. Ecco, parliamo di tempi. Secondo lei che tempi ci sono a questo punto? Guardi, io penso che Obama riuscirà a chiudere il TPP per settembre al massimo, sono già lì, diciamo, siamo alla chiusura, e dopodiché si tratterà di fare un rush per arrivare al primo semestre del 2016 con una chiusura del TTIP. I tempi sono molto stretti, le posizioni negoziali sono ancora distanti su una serie di dossier, però è stato ribadito nell'ultimo incontro G7 e la volontà di chiuderlo addirittura entro il 2015, cosa che mi sembra un po' ottimistica, ma che dà il senso che la spinta per chiuderlo c'è. Ecco, quali sono i punti di maggior contenzioso? Ma guardi, gli americani, diciamo, siamo tutti d'accordo sul fatto che le tariffe debbano andare a zero, siamo tutti d'accordo sul fatto che non ci sono alcune cose nel negoziato, cioè alla fine le regole fitosanitarie, per essere chiari, l'ingresso di OGM in Europa non ci sarà, anche perché il mandato lo esclude in maniera chiara, il mandato che è stato dato alla Commissione Europea per negoziare. I temi sono dal lato americano, in particolare il cosiddetto Buy American, cioè una legge del 33, figuriamoci, che limita gli acquisti della pubblica amministrazione ai prodotti fatti in America, in alcuni casi addirittura con materia prima americana, una legge molto radicata sia a livello federale che a livello statale. Noi non abbiamo un equivalente, il nostro mercato del public procurement, quindi delle commesse pubbliche, è totalmente aperto, e dunque noi vogliamo lo smantellamento. Il secondo tema è un tema che ci tocca molto da vicino ed è quello delle indicazioni geografiche. Ecco, però volevo chiederle, OGM, ma perché mai non si possono importare i beni modificati geneticamente nel momento in cui ci sono le garanzie? Perché cedere, e qui faccio l'avvocato del diavolo perché spesso qualcuno mi manda dei Twitter arrabbiatissimi, velenosissimi, dicendo che io faccio propaganda al libero mercato. Ebbene sì, io credo nel libero mercato, il libero mercato guarda in avanti e sono sicuro che aiuterà la crescita, noi dobbiamo ottenere dei margini di crescita. Ecco, l'OGM, se fatto bene, può essere utile, perché respingerlo? Per cedere, diciamo, ai gruppi di pressione? È un po' un contentino che gli date come politici? Guardi, con tutta franchezza sì, nel senso che io sono abituato a parlare in maniera molto aperta. Allora, gli OGM sono fuori non dall'Europa, non in quanto OGM, ma in quanto esiste in Europa un principio che si chiama principio di precauzione, tale per cui se non è dimostrato che un cibo non fa male, non può entrare. Gli americani hanno il principio inverso, di evidenza scientifica. scientifica, cioè bisogna dimostrare che il cibo fa male, no? Quindi è come fosse un'inversione dell'onere della prova. E questo rimarrà, quindi questo non verrà cambiato ed è una tutela, io credo, forte, questa sì, molto giusta, nei confronti dei consumatori. Noi abbiamo su questo delle regole più stringenti, del resto gli americani per esempio ce l'hanno su tutto il settore dell'automotive, ognuno ha le sue aree di attenzione. Ecco, noi c'è però una normativa europea su questo, se posso, che dice una cosa diversa, dice anche nel caso che un OGM sia approvato in tutti i modi che non fa male, insomma, e quindi che può essere consumato, lo Stato nazionale ha il diritto di limitarne l'ingresso. Perché questo? Perché in realtà c'è un tema, non è un tema ancora esplorato fino in fondo, che riguarda quello del rischio che gli OGM siano talmente tanto convenienti che per esempio abbiano un impatto molto forte sulla ricchezza delle coltivazioni che uno ha, cioè tanti tipi per esempio di riso che rischiano di essere poi spazzati via se ce n'è uno che è molto più economico. Ecco, quindi per tornare, certamente c'è una volontà della popolazione oggi in Italia, ma in molte altre... economica, non è perché fanno male, perché questi prodotti modificati genericamente fanno male, ecco, questa guardi, è l'idea io vulgata. Io non lo penso, anzi penso che per esempio gli OGM svolgeranno un ruolo fondamentale in quello che sarà una delle sfide importantissime del mondo, che è quello della nutrizione, nel senso che noi sappiamo che la popolazione crescendo noi non produciamo abbastanza per sfamarla e questo è uno dei grandissimi rischi globali. Ecco, gli OGM e la messa, diciamo così, a frutto della terra in Africa sono le uniche due cose che possono, ecco, diciamo, in qualche modo risolvere questo problema. Però c'è un tema, per esempio, che ha a che fare con il fatto che noi abbiamo una cultura alimentare del prodotto agricolo che è molto variegata e il rischio che arrivi un organismo geneticamente modificato che sia così conveniente da spazzar via tutto il resto c'è, e questa è una cosa che va ben ponderata. Ecco, altre richieste di protezione che vengono un po' dappertutto, c'è paura, io sento così una paura diffusa in Italia, lavoratori che temono di perdere il loro posto di lavoro, aziende che hanno paura di chiudere, ho ricevuto dei messaggi, come le ho detto, via internet, molto aggressivi. Cosa diciamo a costoro, alle persone che temono di trovarsi in difficoltà davanti alle aperture, per rassicurarli? Ma guardi, oggi l'evidenza è tutta contraria. Noi esportiamo negli Stati Uniti, abbiamo esportato circa 30 miliardi di euro di beni. Quest'anno stiamo crescendo a un tasso superiore al 30%. Io faccio sempre questo esempio. Il solo primo quadrimestre, l'aumento dell'export italiano nel primo quadrimestre negli Stati Uniti vale quanto perderemo in tutto il 2015 verso la Russia, che sappiamo ha una situazione molto difficile. Oggi gli Stati Uniti sono protezionisti su tutti i nostri settori, cioè hanno barriere tarifarie su tutti i settori in cui siamo forti, dall'agrobusiness alla tessile, all'oreficeria, alle calzature, eccetera. Allora per noi questo è una straordinaria opportunità. Noi abbiamo fatto degli Stati Uniti il mercato prioritario di tutta la promozione italiana e i dati ci stanno dando ragione, proprio perché abbiamo un potenziale non sfruttato ancora gigantesco. Il TTIP sarà una spinta importantissima per le nostre esportazioni, che sono l'unico vero volano della nostra crescita. Dunque questo rischio io francamente non solo non lo vedo, ma anzi tutte le stime che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto fare delle stime indipendenti da Prometea, che è una società che fa questo, un ufficio studi che fa questo, dicono che addirittura nel caso di un accordo molto ampio e ambizioso si potrebbe avere un effetto positivo sul PIL fino allo 0,5%, quindi stiamo parlando di un risultato molto significativo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di aperture commerciali. Aperture commerciali aiuteranno la crescita, ci ha detto il vice ministro Calenda, addirittura dello 0,5%, e dunque ci aiuteranno a guadagnare qualcosa di più. E allora, per restare in tema, ma dei Pet Shop Boys, una canzone del 1985, Opportunities, opportunità, Let's Make Lots of Money. Daniel New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.